Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, non mi avete ancora detto se vi piace la sigletta natalizia. Potete scrivermelo, dirmelo all'800240024. Ma a proposito di Natale, per Natale, o dico anche per l'anno nuovo, facciamoci un regalo, un regalone. Smettiamo di fumare, o almeno iniziamo a pensarci. Questo, care amiche, cari amici, è un periodo favorevole per provarci. In realtà ogni momento è buono e dovrei aggiungere non è mai troppo tardi per smettere, ma come si dice, cogliamo l'attimo. In linea con noi abbiamo Claudio Belotti, esperto del nostro Daily Lab, uno straordinario coach per amico. Ciao Claudio. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli radioascoltatori. Claudio, smettere a Natale potrebbe essere una buona idea? È un'ottima idea. Noi aspettiamo sempre che un evento renda un giorno speciale. Io e te, Nicoletta, ad esempio, ci ricordiamo il giorno in cui sono nati i nostri figli e abbiamo reso questo giorno speciale. Perché a Natale non fare il contrario? Natale è già un giorno speciale, rendiamolo speciale con un evento speciale e decidiamo di fare un regalo bellissimo a noi stessi, al nostro corpo e ai nostri cari, e smettiamo di fumare. Grazie Claudio, quindi approfittiamo per Natale, iniziamo, se non ce la facciamo proprio a Natale, pensiamoci durante le vacanze oppure subito per l'anno nuovo, ma l'importante è legare questa scelta ad una data che è già di per sé importante nella nostra vita. Esattamente sì, e soprattutto approfittare della pausa per rallentare e pensare a quello che è più importante. E la salute è sicuramente più importante del fumo. Grazie a Claudio Belotti. Buon Natale, Claudio. Anche a voi, un abbraccio. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. Anche quest'anno sta per arrivare, è barbuto, panciuto, vestito di rosso, ma quest'anno senza pipa e Babbo Natale. Infatti nella nuova edizione dello storico libro dedicato a Santa Claus, la scrittrice canadese Pamela McCall, si è armata di penna, ha riscritto una nuova versione con un Babbo Natale libero dal fumo. L'obiettivo è chiaro, dissociare il fumo da questo personaggio amatissimo per ricordare ai ragazzi che fumare fa male e soprattutto disincentivare verso questo vizio. Sarà d'accordo anche il dottor Boffi, che qui in studio con me nel nostro reality per smettere di fumare di qualche anno fa l'avevamo soprannominato dottor antifumo. In realtà è responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e direttore del centro antifumo presso lo stesso istituto. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Non è mai troppo tardi per smettere, vede che hanno tolto anche la pipa Babbo Natale, ma c'è indubbiamente chi fa più fatica di altri. Intanto ricordo, non si fa fatica invece a fare il nostro numero verde per confrontarsi con noi su questo tema, smettere o non smettere, perché non riusciamo a farlo, perché spesso si ritorna ad accendere la sigaretta dopo aver fatto tanta fatica a spegnerla. 800 24 00 24, siamo anche come sempre su Facebook e su Twitter. Alcuni più di altri fanno fatica. Assolutamente sì, il fumo è definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità una patologia cronica recidivante e il fumo non è per me assolutamente solo uno stile di vita, neanche un vizio, ma una vera e propria dipendenza, quella dovuta alla nicotina, che è la droga contenuta dalle sigarette o dalle pipe o dai sigari. Quindi lei è la nicotina che crea la dipendenza, ma noi abbiamo messo anche sulla nostra pagina Facebook un test, che è un test molto famoso, è il test di Fagerstrom. Sì, è un questionario validato internazionalmente, molto semplice, con solo 6 domande. E le due principali sono: quando fumi la prima sigaretta al risveglio, se la fumi subito, se aspetti di bere il caffè o di essere uscito da casa, e quante sigarette fumi. Se sei un forte fumatore, di solito fumi entro 5 minuti, un quarto d'ora al massimo, e fumi più di 20 sigarette. Poi ci sono altri fattori che influenzano una diagnosi di forte fumatore o meno. Ad esempio, quale sigaretta troveresti più difficile da lasciare? Esatto, la prima del mattino nei forti fumatori, oppure se fai fatica a non fumare dove è proibito, non se rispetti la legge, ma se fai fatica a farlo. oppure se fumi anche se hai l'influenza, se sei costretto a letto. Queste sono caratteristiche, così come fumare nella prima ora dopo il risveglio, non solo una sigaretta ma più delle altre ore del giorno, sono indici di forte dipendenza da nicotina. Se volete misurare il vostro livello di dipendenza, il vostro grado di dipendenza, qua in diretta con noi il dottor Boffi è pronto, è molto soddisfatto, sì, perché lui insomma aiuta chi vuole smettere di fumare. È un genio, uno psicologo svedese che crede molto alla personalizzazione del fumatore. Prima cosa, il fumatore deve conoscersi e poi magari cercare di farsi aiutare da chi ha questo compito. Non siete nati fumatori? Perché c'è stato un periodo nella vostra vita in cui non fumavate. Angelica lavora come psicologa in un centro antitumori e da un anno conduce con successo un corso antifumo a cui ci ha costretti tutti a partecipare. Era evidente che alcuni non erano adatti a quel metodo, ma Roberta è addirittura negata. L'unico modo per smettere un vizio è iniziarne un altro. Si chiama legge di compensazione, lo sapevi? Che cosa vi ho detto? Non dovete parlare tra di voi. Voi dovete concentrarvi sul fumo. Sul sapore in bocca del fumo, sulla sensazione fisica del fumo che entra nella gola e va giù nel petto. Adesso fate una bella boccata tutti insieme. Com'è? Cattivo. Dottor Boffi, lei sottolineava l'importanza di conoscere il tipo di fumatore. Ciascuno di noi deve provare a farlo. Negli Stati Uniti hanno identificato 7 tipologie di tabagisti che vengono descritte in un libro che vi consiglio di leggere e anche di regalare. Si intitola 101 motivi per non fumare. In linea con noi abbiamo uno dei tuoi autori, John Rossi Mason, giornalista medico scientifico. Ciao! Buongiorno Nicoletta. Il tuo compagno di libro è un medico, il dottor Beatrice, torinese. Sì, anche lui un direttore di centro antifumo, ci siamo divisi un pochino il lavoro, lui la parte più clinica, io quella un pochino più divulgativa. E è stato un percorso molto interessante e molto divertente. In realtà devo dire che abbiamo individuato molti più di 101 motivi, ma ci eravamo dati un obiettivo e lo abbiamo, ci siamo fermati lì, ma non escludiamo una seconda edizione. Sì. E negli Stati Uniti, come correttamente dicevi tu, sono state identificate proprio 7 tipologie di tabagisti, tra il serio e il faceto. In realtà anche in questa lettura un pochino ironica c'è della realtà, c'è della verità. Una delle tipologie, di solito donna, è la skinny smoker, cioè il fumatore che ritiene che la nicotina e la sigaretta lo aiuti a rimanere magro perché attribuisce a questa sostanza un potere anoressante, cioè di togliere l'appetito. In realtà, come anche il professor Bossi ci potrebbe dire, non è esattamente così. Questa immagine gli serve anche a confermare l'immagine corporea. Non smette soprattutto perché ha paura di prendere peso e questo rappresenta per lui il maggiore deterrente. Poi c'è il fumatore solitario, quello che fuma di nascosto, se ne vergogna e quindi magari fuma in bagno, di nascosto dai colleghi, dai familiari. Si sente in colpa, si sente continuamente in colpa e teme di essere scoperto. Dice di essere un consumatore occasionale, in realtà una ricerca del 2008 ha stabilito che anche solo 2 o 3 sigarette al giorno possono compromettere per esempio il funzionamento della circolazione, la circolazione arteriosa. Poi c'è il fumatore ribelle, fa parte proprio di un particolare tipo psicologico, fuma perché fa male, cioè vuole essere coerente con questa immagine di maledetto e quindi qualsiasi comportamento lo porta a confermare questa immagine negativa, lui la persegue, quindi fuma, mangia troppo, guida magari in maniera spericolata e fuma in eccesso ed è quel tipo di fumatore che comincia a fumare durante l'adolescenza proprio come forma di ribellione verso le figure parentali. Però fumare è come andare in moto, cioè più a lungo si fa più c'è il rischio di avere un incidente, certo. Purtroppo. Il fumatore sociale invece è una categoria molto interessante, addirittura noi nel libro abbiamo dedicato un apposito capitolo. Il fumatore sociale è quello che fuma solo in alcune circostanze, all'aperitivo, alla festa, in discoteca e fuma solo in compagnia. Da solo non fuma mai e lui non si considera nemmeno un vero fumatore, in realtà lo è, non è forse dipendente dalla nicotina, dalla quantità che ne ha nel sangue, ma lo è dalla sigaretta, quindi dall'oggetto, dalla gestualità, esatto, gli dà questa sensazione di essere più integrato socialmente se fuma. Io e poi C'è il fumatore stressato, che è quello che fuma per alleviare l'ansia, che al lavoro è in continuazione fuori dalla finestra o dal balcone, ed è quello che probabilmente rischia anche un maggior numero di patologie respiratorie in inverno, perché poveretto, insomma, sta sempre fuori a tentare di dare sollievo a questa ansia. Anche qui il professor Bossi ci potrà confermare che non è vero che il fumo è un ansiolitico, è un effetto unicamente psicologico. Dottor Boffi. Conferma. Beh, sì, è proprio vero, sono i famosi alibi dei fumatori, sia quello del peso che quello dell'ansia, che bisogna cercare di scardinare, però aiutandoli i fumatori. Ecco, io dico sempre, se in Italia i fumatori sono quasi il doppio degli ex fumatori, sono più di 11 milioni sì. I fumatori in Italia e 6,5 milioni gli ex fumatori, invece in paesi che investono in più in prevenzione e nell'aiuto ai fumatori che vogliono smettere, come in Inghilterra, il rapporto è esattamente invertito, cioè gli ex fumatori sono il doppio dei fumatori, significa che qualcosa di più dobbiamo fare per aiutare tutti i tipi di fumatori di cui abbiamo sentito parlare adesso dalla collega. Solitario, ribelle, sociale, Joan. Ho il serial killer, che è quello, lo smettitore seriale, quello che per il quale ogni sigaretta è l'ultima, salvo poi accendere quella dopo. Quindi lui ha smesso almeno 100-200 volte. E un sondaggio non molto recente dell'Istituto Gallup ha rilevato che il 16% dei fumatori ha provato almeno 6 volte a smettere senza successo, ma questo perché lo fa senza aiuti. Si ritiene che sia facile, in realtà, come correttamente dice il professor Bossi, per ciascun fumatore c'è un metodo più adatto per aiutarlo. E infine il fumatore incosciente è quello che non solo non pensa alle conseguenze, ma è contento di fumare e non gli importa cosa pensa la gente di lui, e lo fa in maniera totalmente senza pensare né alla propria salute né all'effetto che ha il fumo, la sua abitudine, sulle persone che gli stanno vicino. Fanno parte di questa schiera i forti fumatori, quelli da più di 2 pacchetti al giorno, e sono i recidivi, forse quello zoccolo duro che anche il centro antifumo non riesce né a intercettare né a curare, purtroppo. Joan, intanto chiedo agli ascoltatori di provare a riconoscersi, a delineare il proprio profilo di fumatore. Joan Rossi Mason ve ne ha date addirittura 7, potrebbero essercene altri, potete inventarli anche voi, insomma descrivetevi all'800 24 00 24. Intanto che voi lo fate, chiedo all'amica Joan di darci 3 buoni motivi per non fumare. Uno dedicato alle amiche di essere benessere, uno dedicato agli ascoltatori uomini e uno da rivendere ai nostri figli che, nonostante tutto, continuano a iniziare a fumare. Guarda, so che tu vuoi che io sia brevissima, quindi ti dico solo, non è stato facile sceglierli. Direi però che in questo momento non volevo essere troppo pesante, quindi per le amiche direi che smettere migliora sicuramente la cellulite, e non cominciare o smettere anticipatamente migliora notevolmente le rughe. E quindi direi che, visto che siamo sempre molto interessate ad apparire al meglio, facciamo veramente del bene al nostro aspetto estetico, per una serie di ragioni forse un pochino lunghe da spiegare in una diretta radiofonica. Quindi hanno più belle senza bionde. Assolutamente, più belle senza bionde e con una silhouette che, cominciando a smettere adesso con un buon proposito del 2013, ci permette di arrivare in spiaggia in splendida forma e con meno cuscinetti, quelli odiosi, insomma, abbastanza brutti da vedersi. Per gli uomini era molto semplice dire la disfunzione erettile, in realtà non volevo essere... Intanto la buttiamo lì, intanto la butto lì. In realtà penso ad un deterrente maggiore, che è quello della calvizie. Le sigarette alterano il flusso di sangue pompato ai follicoli del cuoio capelluto. Chi fuma perde più spesso i capelli, il fumo aumenta il livello di androgeni, e chi è predisposto alla cosiddetta alopecia androgenetica accelera solamente questo fenomeno. Quindi, per mantenere una bella chioma, cosa alla quale gli uomini tengono abbastanza, smettete immediatamente di fumare e la vostra testa sarà più al caldo per questo inverno. Mentre per i ragazzi... Per i ragazzi non è semplice, i ragazzi vivono al momento e non hanno nessuna coscienza del futuro, non sono incapaci di capire le conseguenze future. Ho pensato alla litosi, i ragazzi sono elementi sociali, vogliono stare in gruppo e soprattutto vogliono piacere, vogliono essere accolti e accettati. Beh, chi ha l'atlito cattivo è difficile che venga accettato con grande entusiasmo dal gruppo dei pari. E il fumo necessariamente diminuisce il flusso di saliva nella bocca, aumenta la proliferazione dei batteri e questo ha come effetto, nonostante possa essere curata lì generale, cosa che negli adolescenti insomma è sempre un pochino carente, un alito, insomma, come ha detto anche la litizzetto, che una gazzella potrebbe uccidere una. Va bene, ce le rivenderemo tutte e tre. Grazie a John Rossi Mason, buona giornata. Ricordo il titolo del libro, 101 motivi per non fumare, datecene altri voi, li annoteremo e li passeremo all'amica John Rossi Mason. Grazie, buon Natale. Facebook dedicata al libro, li ripubblicheremo con piacere. Grazie. Grazie. C'è chi smette di fumare e c'è chi fuma per non fumare. Ma che cosa fuma chi fuma per non fumare e chi fuma per non fumare? Fuma o non fuma? Abbiamo voluto tradurre in uno scioglilingua, dottor Boffi, i dubbi e le domande relative a quella che attualmente sembra un'alternativa, l'alternativa preferita alla bionda, la sigaretta elettronica. Dottor Boffi, iniziamo a dare una definizione per sigaretta elettronica, sigaretta digitale, perché vedremo, e lo faremo nel corso della trasmissione, che questo tema è abbastanza fumoso. Volentieri, sì, però molto di moda, molto, molto d'attualità, di moda. Quindi mi sembra assolutamente giusto e corretto parlarne. Ma intanto inizierei con una curiosità linguistica. Le sigarette elettroniche non si fumano, ma si svapano. Quindi già questa è una prima differenza, sì, per essere moderni. Sottolinea che non, ecco, c'è fumo. Esatto. Ecco, e poi svapare. Precisi, svapare. Svapare. Ci mancava questo verbo. Perché? Perché emettono vapore. E quindi cosa sono le sigarette elettroniche? Tanto va detto che ci sono forme differenti, però generalmente hanno gli stessi componenti, più o meno nicotina. Gli stessi componenti sono un filtro contenente una cartuccia, un vaporizzatore, detto anche atomizzatore, una batteria ricaricabile e un circuito elettrico. Elettronico, interno. Il filtro in particolare è costituito da materiale plastico ipoallergenico e al suo interno contiene la cartuccia contenente la soluzione di glicole propilenico, glicerolo, nicotina o aromi vari. Quindi liquidino, insomma. Quando si parla di sigaretta elettronica o e-cig, va detto intanto che c'è appunto una galassia di prodotti, certo, di commercio non ancora farmaceutici, differenti tra di loro, ma che hanno queste caratteristiche generali, ecco, che le hanno tutte. Allora, intanto voglio dare la parola ai nostri ascoltatori che ci stanno chiamando all'800240024, Domenico che ci chiama dalla provincia di Brescia. Buongiorno Domenico, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei, buon Natale. Grazie altrettanto. Premetto che io lavoro in una comunità di doppia diagnosi, tossicodipendenza, alcolismo. Il tabaccaio da noi arriva con la carriola, fischiettando, perché gli diamo 800 euro la settimana e quindi lascio immaginare quanto si fumi nell'ambiente dove lavoro. Detto questo, sì, io sono un fumatore e non ho intenzione di smettere, ne fumo due al giorno. Dopo il caffè, magari, sì, corretto, sì, mi fumo la mia sigarettina e così, ma non la non al fumo mattino molta, lei, eh. Senta, al mattino lei fuma o no? Sto sbirciando, no, il test di Fagerstrom. Il mattino proprio mi disgusta la sigaretta, quindi la fumo dopo pranzo e dopo cena, basta. E basta, solo quelle due lì, da solo o in compagnia? Perché anche questo fa un po' la differenza. I miei colleghi fumano, mi attirano a volte a fumare, ma io faccio un tiro della sigaretta, poi la lascio a loro. Allora, Domenico fuma poco e non vuole smettere. Può fare quello, cioè, possiamo. Diciamo che è l'eccezione che conferma la regola. Noi all'Istituto dei Tumori stiamo studiando da tempo anche l'aspetto farmacogenetico, cioè il polimorfismo genico dei recettori della nicotina, che sembra influenzare la tendenza a diventare velocemente forti dipendenti dalla nicotina e far fatica a smettere di fumare. Evidentemente il nostro radioascoltatore è appunto in questa categoria, purtroppo una quota piccola di fumatori che riesce a autogestire la sigaretta. Lui poi lavora in un ambiente dove ha detto che il fumo viene considerato il male minore, questo anche nelle carceri ad esempio, o comunque anche nei reparti di psichiatria, me lo sento dire spesso. Però va detto che comunque chi vuole smettere, secondo me, in qualunque condizioni di salute e di lavoro e di ambiente sia, ha diritto di provarci. Andiamo a Piacenza, c'è Stefano che ci chiama all'800240024. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buon Natale, buon Santo Stefano. E buon Santo, bravo, buon Santo Stefano. ci sentiremo magari anche il 26. Senta Stefano, noi abbiamo quasi mercati, ma vorrei che lei anticipasse la sua domanda o... Stefano? Sì, la mia domanda è riguardo alla sigaretta elettronica di cui io sto facendo uso da circa una settimana. Ne trovo un beneficio incredibile perché non ho toccato più una sigaretta. Le mie due domande che volevo fare. Una è se le sigarette elettroniche comprate al di fuori del circuito farmaceutico sono meno dannose, più dannose, non so se c'è una dannosità, diciamo. Sì. E poi mi pare di aver capito che chi fuma la sigaretta elettronica sarà sempre comunque dipendente dalla nicotina, quindi facilmente potrebbe ricadere in una sigaretta normale. Allora, sbaglio? Questi sono i dubbi di Stefano e noi di sigaretta elettronica ne parleremo tra poco, subito dopo i mercati e il meteo. Naturalmente ne parleremo col dottor Boffi. La questione si rompe un po' a due anime il dibattito, capire se la sigaretta elettronica è sicura dal punto di vista della salute, se è efficace per smettere di fumare e se è totalmente innocua. Esatto, due anime della discussione, ma abbiamo il piacere di avere con noi anche il professor Riccardo Polosa, direttore della clinica di medicina interna e di urgenza del Policlinico Universitario di Catania, professore ordinario di medicina interna. Professore, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori, salve a tutti. Ecco, dottor Boffi, il nostro ascoltatore chiedeva se ci sono delle differenze tra le sigarette elettroniche vendute in farmacie e negli altri centri vendita, e nascono anche dei centri proprio dedicati, monomarca, sì. E poi se in qualche modo può evitare che si interrompa la dipendenza, ostacolare la cessazione totale del fumo. Rapidamente, alla prima domanda rispondo che non ci sono in questo momento delle evidenze che possano consigliare l'acquisto della sigaretta elettronica in farmacia piuttosto che in un negozio dedicato. E per quanto riguarda invece la seconda domanda, sì, è vero, è un limite, un rischio, oltre ai dubbi sulla salute dovuto all'uso continuativo delle sigarette elettroniche, di cui poi magari parleremo, c'è che potrebbero, mantenendo la gestualità e l'inalazione così cara ai fumatori, rischiare di perpetuare indefinitivamente il gesto fino allo sfinimento e alla conseguente resa. Vorrei sapere il parere del professor Polosa. Professore, lei col suo gruppo ha condotto uno studio clinico intitolato Effetti delle sigarette elettroniche per la riduzione e cessazione della dipendenza tabagica, uno studio pilota prospettico a 6 mesi. E i risultati di questa ricerca sono stati pubblicati su una rivista scientifica internazionale molto prestigiosa. Lo studio ha preso in esame una sigaretta elettronica in particolare, non si tratta quindi di uno studio che indipendente o generalizzato. Lei ha studiato la versione con e senza nicotina. Premesso che i risultati di una ricerca svolta di una tipologia di sigaretta elettronica non sono necessariamente trasferibili ad altri prodotti, secondo i suoi dati, la sigaretta elettronica è efficace per smettere o per ridurre il numero di sigarette fumate e a quale tipo di fumatore la consiglierebbe? Bene, penso che sia una domanda classica, cara Nicoletta. Intanto buongiorno a tutti i radioascoltatori e un bel buongiorno anche all'amico Boffi. Ciao, ciao. Torniamo alla domanda. La domanda essenziale è: con la sigaretta elettronica si può davvero smettere di fumare? Soltanto diminuire il fumo di sigarette fa male? Bene, i nostri studi clinici che abbiamo condotto con il prodotto categoria hanno dimostrato chiaramente che molti fumatori che hanno provato il prodotto, indipendentemente dalla loro forza di volontà, perché devo specificare una cosa importante, molti studi di disassociazione del fumo si rifanno a fumatori che hanno intenzione di smettere di fumare. I nostri studi invece sono indirizzati a un target molto diverso, che sono i fumatori che non hanno alcuna intenzione di smettere di fumare. Ecco, in queste popolazioni di fumatori abbiamo visto e dimostrato che l'uso di questo prodotto ha ridotto e in alcuni casi addirittura abolito completamente il consumo di sigarette tradizionali. Quindi devo dire anche un po' a sorpresa, questi prodotti si sono rilevati utili per smettere e a mio parere, e spero anche al parere di Boffi e degli altri colleghi, possono rappresentare una grande opportunità dal punto di vista di salute pubblica. Poi un'altra cosa molto interessante era l'ultimo intervento di un vostro radioascoltatore relativamente alla creazione di una nuova dipendenza, sì, o sbaglio, sì, che è anche una domanda che le pongono frequentemente quando si parla di sigarette elettroniche. Ecco, probabilmente sì, si crea una nuova dipendenza, si creerebbe però un altro tipo di dipendenza, così come può essere, che so, una dipendenza a parlare troppo al telefonino o trascorrere troppe ore ai videogiochi. Però dobbiamo anche un attimino provare a ragionare. Proviamo. Il timore della dipendenza alla sigaretta elettronica è, secondo me, un falso problema. Sdoganare il fumatore da una dipendenza mortale, come quella da fumo di tabacco, a quella sostitutiva di un ciuccio elettronico, sì, come la chiamo io, mi pare che comunque è una definizione coniata da Vasco Rossi, sì, comporta comunque una sostanziale riduzione del rischio per la salute. Quindi lei dice è meno rischiosa la sigaretta elettronica, quindi se si diventa anche dipendenti da questa alternativa alla bionda che si rischia di meno. Dottor Boffi, lei ha detto giusto, Nicoletta, quando diceva bisogna fumare per smettere di fumare, ma può sembrare paradossale la sua affermazione, ma è proprio così. Intanto, per quanto più efficace e soddisfacente questa esperienza, tanto più inverosimile sarà la possibilità di ricaduta nel vizio e il fumo originario. Dottor Boffi. Sì, sono d'accordo con Riccardo che la riduzione del danno è un argomento di cui si parla molto anche a livello europeo, anche in Svezia per quanto riguarda il tabacco masticato, e quindi sicuramente fanno fumare di meno. Esatto, è un fatto, e ti danneggiano meno, e quindi però ecco, il fatto che non sia certo che non danneggino per niente, penso che meriti ulteriori studi da poter poi comunicare a chi le vuole usare. La sua attenzione si concentra su che cosa? Non sulla versione senza nicotina, su tutte e due, sul vapore che esce, quindi quello che tu aspiri e quello che fai anche inalare a chi ti sta vicino, perché sempre più vedo sigarette, o mi dicono, essere usate anche in ambienti dove è proibito fumare, tipo gli ospedali ad esempio, e quindi penso che sia corretto per i consumatori e per tutti avere informazioni scientifiche definitive, speriamo in fretta, dalle istituzioni sul potenziale rischio pur minimo dell'uso delle sigarette elettroniche. Professor Polosa, lei ha studiato anche la sigaretta nella versione con nicotina, e una delle critiche che viene mossa a questo tipo di sigaretta, quindi con l'aggiunta di nicotina, è la possibilità che viene lasciata al fumatore di somministrarsi da solo la nicotina, che sappiamo è la sostanza che genera dipendenza. Ma non è proprio quello che fanno i fumatori ogni giorno? Non si automedicano, secondo lei? Quindi questa è la sua posizione? Grosso modo sì, anche se devo dire che la nostra esperienza negli studi più ampi che abbiamo poi condotto negli anni successivi hanno radicalmente ribaltato la mia visione della dipendenza alla nicotina. In che senso? Il fumatore non è semplicemente dipendente alla nicotina, il fumatore è dipendente da diverse componenti, sia comportamentali, sociali. Mi pare che c'è stato un bel intervento all'introduzione un libro circa, sì, 101 motivi per non fumare, perfetto, in cui abbiamo sottolineato, dove venivano anche stilati delle diverse tipologie di fumatore, e chiaramente questo chiarisce molto bene l'ambito complesso nel quale ci muoviamo. Quindi oltre alla nicotina c'è di più la gestualità, ritrovarsi insieme. La tradizionale si è sempre mossa insieme alla farmacologia clinica tradizionale nell'ambito del contrasto alla nicotina. In realtà non è così, i nostri studi recenti dimostrano che anche le sigarette senza nicotina elettroniche sono in grado di determinare dei benefici, non comunque a livello di quelle contenenti nicotina. Certo. Ma poi sorge spontanea la domanda nel consumatore: ma la nicotina fa male? Allora, anche qui dobbiamo provare un attimino a ragionare, cercate di seguirmi. Sebbene è vero che la nicotina contribuisca alla dipendenza, fatto salvo il discorso che abbiamo affrontato prima, cioè che la dipendenza è molto complessa e non è solamente una sostanza chimica quello che rende ragione la dipendenza, il problema è che queste sostanze neurotrasmettitoriali non sono la vera causa delle malattie provocate al fumo di sigarette che portano a morte. La causa invece è data dalle sostanze tossiche, dai cancerogeni, come detto dall'amico Boffi. Il dottor Boffi, nel suo libro, perché non ho citato il libro di Spegnila, noi l'avevamo fatta proprio spicherare, aveva fatto una attenta analisi di tutto quello anatomia di una sigaretta, con dei nomi che erano un po' anche molto tecnici, improponibile, ma di alcuni aveva fatto il riferimento a dei veleni che tutti noi conosciamo. Sì, polonio, quindi professor Polosa, leggera, non entreremo nel dettaglio delle 8000 più sostanze tossiche. Ma questo, il suo messaggio è chiaro. Perdoni Nicoletta, finisco il mio completo il mio pensiero. La sigaretta elettronica contiene sostanze innocue come il glicerolo e il glicole propilenico essenzialmente. Inoltre è intuitivo che questi nuovi prodotti, utilizzando la vaporizzazione e non la combustione per veicolare la nicotina, risultino dalle 200 alle 1000 volte meno tossiche rispetto alle tradizionali bionde. La letteratura dice ancora carente, ma esistono numerose evidenze che supportano queste nostre affermazioni. Grazie professor Polosa, speriamo che ci siano poi delle ricerche che vadano proprio a misurare effettivamente, no? Che cosa, certo, di quanto sappiamo che è meno, molto meno dannosa della sigaretta, ma è esente assolutamente da rischi per la nostra salute? Questo vaporino ancora. Che cosa contiene, che cosa ci fa? Ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico. Ringrazio il professor Polosa, in linea con noi saluto il professor Carlo Cipolla, direttore della divisione di cardiologia dell'Istituto Europeo di Oncologia. Professore, buongiorno. Buongiorno. Lo IEO, insieme al San Raffaele Almonzino, ha proprio organizzato un protocollo ad hoc per analizzare una sigaretta elettronica senza nicotina su forti fumatori, vero professore, malati infartuati o malati di tumori. Sentiremo dal professor Cipolla le news su questo protocollo. Professor Cipolla, l'Istituto Europeo di Oncologia, lo IEO, in collaborazione col San Raffaele Monzino, ha avviato un protocollo per studiare le potenzialità antifumo della sigaretta elettronica. E anche il vostro studio, come quello che abbiamo citato del gruppo del professor Polosa, ha preso in esame una sigaretta elettronica in particolare, nella versione senza nicotina, proprio per valutare se può davvero rappresentare uno strumento efficace, almeno per innescare la fase iniziale del percorso di disassuefazione del fumo. Certo. Stiamo parlando però di una sigaretta elettronica che voi avete, si può dire, testato, provato, fatto svampare a pazienti affetti da tumore e da infarto miocardio recente, quindi fumatori tosti, almeno 10 sigarette al giorno da 10 o più anni. Certo. Con delle malattie, potrei dire, fumo correlate, mi corregga lei professore? Sì, fumo correlate e soprattutto gravi. Mi consenta due premesse, nel senso che come Polosa e Boffi hanno detto bene, tutti invocano studi per capire se, il problema è che nessuno li fa e che nessuno li fa seriamente e che nessuno li fa con l'obiettivo vero di capire se questo strumento può essere uno strumento medico per partecipare a pieno titolo a un protocollo di disassuefazione dal fumo, perché questo è il punto, non c'è niente di magico, ma noi nel nulla che c'è o nel poco che c'è noi dobbiamo capire che cosa possiamo utilizzare per. Allora, visto che gli studi non sono conclusivi, noi abbiamo messo in piedi uno studio che è stato accettato dalle autorità italiane e americane, l'unico studio al mondo che va a ficcarsi nei guai da solo, sì. Cioè cerca di capire se la sigaretta elettronica funziona nei pazienti malati e difficili, cioè sì. Nei pazienti che l'infarto uno il giorno prima non sa che l'avrà il giorno dopo, si trovano in unità coronarica con l'abitudine di 40 sigarette al giorno e non sanno cosa fare, ricoveri urgenti per leucemie e linfomi oppure per tumori. Cioè abbiamo scelto una popolazione di pazienti particolarmente difficili. In un momento difficile, con lo scopo preciso di vedere se nella fase più critica della loro traiettoria di salute e di un ipotetico percorso antifumo, la sigaretta elettronica poteva essere efficace, sì. Perché è questo che interessa, non aver trovato la cosa che risolve sempre tutto a tutti, ma un elemento per iniziare è la disassuefazione almeno psicologico-gestuale. Professore, e quali sono, qual è la situazione, che cosa avete notato? Allora, noi intanto abbiamo iniziato a fare questo protocollo, ovviamente dopo un periodo di test su pazienti, mi passi il termine, normali, sì. Per capire il tipo di sigaretta, sì. Non malati, e quindi voglio dire, siamo andati via decisi su questa cosa. Abbiamo scelto tre ambiti complessi e tre ospedali top, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico per sì, li abbiamo citati proprio per fare per aiutarci a vicenda, per non essere, voglio dire, portati dall'entusiasmo magari in maniera eccessiva. Ma siamo in arrivati sostanza? Praticamente siamo arrivati a metà protocollo. Io i risultati non li posso dare perché non è corretto. Però siamo già riusciti a arruolare 53 pazienti e probabilmente quando arriveremo sui 100. Allora, lasciamoci con questa promessa. Quando abbiamo gli esami, i dati a disposizione, lei torna qua e ci racconta, va bene? Quando abbiamo fatto la pubblicazione lo facciamo senz'altro. Quello che posso dire è che per la dipendenza psicologico-gestuale, al di là di tutte le chiacchiere, il prodotto certamente ha un effetto positivo. La cosa grave è la nicotina che circola nelle sigarette normali e in questi nuovi pipponi che possono provocare delle intossicazioni e una legislazione carente, forse certo. Addirittura ottusa, che non ha fatto chiarezza e che lascia la possibilità. Adesso, professore, se lei ha tempo, salutiamo la dottoressa Roberta Pacifici, buongiorno, sì. Direttore buongiorno. Dell'osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui chiediamo un pochino di prendere un po' le posizioni, di tirare un po' le fila di questo discorso. Allora, una comunicazione per gli ascoltatori, sono arrivate tantissime telefonate. A cui naturalmente non siamo riusciti a rispondere. Che cosa succede? Una decina delle persone che hanno telefonato e stanno telefonando verranno selezionate, il dottor Boffi dalla redazione di Essere Benessere chiamerà. In più, chi scriverà la domanda su Facebook troverà sicuramente una risposta. Dategli tempo, povero uomo, tra oggi e domani. Dottoressa Volentieri. Pacifici, rimaniamo a lei. Allora, facciamo, noi abbiamo tre minuti. Sì. Parta sì. E ci dica le posizioni dell'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell'Istituto Superiore di Sanità sulle sigarette elettroniche. Vada. Benissimo, grazie, buongiorno a tutti. Bene, io vedo prospettare degli scenari molto diversi in funzione della tipologia di consumatore. Facciamo un primo step, che è il fumatore che vuole smettere di fumare e quindi ritiene la sigaretta elettronica un utile strumento per diventare un ex fumatore. Bene, per questo tipo di scenario ritengo che, come abbiamo già sentito, non abbiamo ancora elementi esaustivi per dire che la sigaretta elettronica è efficace nel trattamento del tabagismo, bisogna investire su ricerche con disegni sperimentali corretti. Ritengo però anche che se, come tutti ci auguriamo, perché sarebbe uno strumento in più, che la sigaretta elettronica si dimostri una reale efficace, ecco, per aiutare i fumatori a diventare ex fumatori, allora dovrebbe essere regolamentata come gli altri prodotti sostitutivi della nicotina. Poi diciamo esiste però un altro scenario, che è quello della tipologia di consumatore che è diverso, cioè è il fumatore che non vuole smettere di fumare ma utilizzare la sigaretta elettronica nei luoghi, per esempio, dove in cui oggi non è permesso fumare. Ecco. Io ritengo che questo è uno scenario molto pericoloso, che potrebbe incrinare o addirittura annullare il valore fortemente educativo della legge Sirchia, che oltre a proteggere la salute dei non fumatori da fumo passivo ha anche avuto il grande vantaggio di il grande merito di promuovere e condividere stili di vita sani. Poi un ultimo scenario è quello che ci prospettiamo, che esiste un'ulteriore tipologia di consumatore, che è il giovane, che utilizza la sigaretta elettronica con o senza nicotina perché va di moda. Certo. E la preoccupazione è che in questo caso traghetti. Questo diventi una porta d'ingresso al consumo delle sigarette classiche. Dottoressa Pacifici, è stata perfetta nei tempi. Allora, questo tema, che spero meno fumoso, verrà nuovamente affrontato. Ringrazio la dottoressa Pacifici, il professor Cipolla, il dottor Boffi. Trasferiamoci, chiamate, sarete richiamati e scrivete e avrete una risposta. A domani.